è stato fondamentale perché ha portato la discussione della critica della psichiatria e la critica della psichiatria ai livelli più alti, sia a livello teorico e a livello pratico. Se a livello teorico possiamo ricordare come massimo esponente Thomas Sacks a livello internazionale, a livello pratico sicuramente l'esperienza di Giorgio Antonucci è quella più significativa per, appunto, per la critica radicale alla pseudoscienza medica che è la psichiatria. Antonucci ha scritto una ventina di testi, alcuni si trovano anche in internet a livello gratuito, ma la sua esperienza si differenzia dal suo amico Thomas Sacks perché, appunto, è anche un'esperienza pratica. Dopo aver lavorato a Firenze nei primi anni 60, dopo essere stato allievo di Assagioli, che lui è ancora studente di medicina, è stato chiamato dal professore Assagioli come collaboratore, poi si è distinto in quegli anni, nella panoramica che c'era in quegli anni, perché ha trovato una soluzione ai problemi sociali e ai problemi individuali dell'individuo con la società e dell'individuo con se stesso, facendo a meno di quello che allora era chiamato il ricovero coatto e poi con la legge Battaglia viene chiamato trattamento sanitario obbligatorio. E questo è il punto nodale della critica alla psichiatria, che appunto ha come suo strumento leitario il ricovero, il sequestro di persona. Battaglia lo chiama, lo vuole nella sua equipe a Gorizia, dove Antonucci prende il reparto delle donne agitate. Dobbiamo ricordare l'architettura del manicomio, che ricorda molto l'inferno dantesco. Si entra nei primi reparti che si chiamano osservazione e poi si va sempre più in fondo, dove appunto ci sono gli agitati. Lui vuole entra direttamente a occuparsi delle persone peggiori, quelli che possiamo riferirci alla nostra immagine del pazzo agitato. Vuole occuparsi proprio di quelli, liberare proprio loro, in modo che per i suoi colleghi fosse facile liberare anche gli altri reparti, appunto, ritenuti di persone più trattabili. Oggi il percorso che ha cominciato si può considerare concluso o c'è ancora tanto da fare? Abbiamo visto la chiusura degli OPG e la creazione delle REMS, e la strada dell'antipsichiatria che punto è? La strada dell'antipsichiatria deve essere ancora molto molto solcata. Vediamo anche nei fatti di cronaca di questi giorni, con l'omicidio terribile di Pamela, una ragazza di 18 anni in una comunità terapeutica, che sono i nuovi manicomi, che è costretta a scappare senza documenti, senza soldi, quindi a prostituirsi, perché la sua vita era rinchiusa, appunto documenti eccetera, rinchiusi nella cassaforte della comunità terapeutica. Questo sicuramente non è il modo per, secondo l'antipsichiatria, secondo il pensiero antonucciano, di aiutare le persone, di portarle con la forza in un luogo chiamato comunità o residenza protetta, comunque manicomio, e trattenerle con la forza in un luogo dove non vogliono andare, per cui sono costrette a scappare, per cui a volte ci scappa anche il morto. A questo si collega il discorso del proibizionismo, il discorso comunque che le persone non sono capaci di intendere e di volere, quindi bisogna trattenerle con quello che ne consegue, come in questo caso. È una strada di rivoluzioni culturali prima ancora che politiche, perché, come abbiamo visto, la 180 non ha spostato i paletti della contenzione, della segregazione, della tortura. Certamente con la 180 ci sono delle garanzie, se non altro a livello istituzionale, ma poi nella pratica sono aleatorie, perché sono formali, nel senso che non c'è una responsabilità che non sia quella dello psichiatra, per cui chi deve controllare i fattacci sono sempre della stessa categoria.